E perché fosti meco stamattina sia austera? Che faccio che vi c'era? E da Basilio che per me ti parlò? Ma qua mi sogna per me che un Basilio! È vero, è vero! E mi prometti poi se tu manchi o cuore mio? Ma la contessa attenderà il fiaschetto. E fu un prevesto! Parlati non avrai senso di questo! Carissima! Stigete! E mia senz'altro! Forbettemela, buon signore!